Città Fujiko Live Club. In studio Nevio Bencivelli. Ciao a tutti, Nevio al microfono, come potete sentire dalla mia voce, l'apparato vocale, quello che è quest'oggi, come sempre in questa stagione, altamente deficitario. Comunque questa trasmissione, che quasi ogni mercoledì dalle 10.30 alle 12.25 si propone di farvi ascoltare musica registrata dal vivo, questa trasmissione andrà in onda ugualmente e si chiama Città Fujiko Live Club. Il tutto naturalmente da Radio Città Fujiko from Bologna, 103.1 MHz, nonché l'apposita app che potete scaricare dal sito, con la quale ci potete ascoltare in tutto il mondo. E come sempre Città Fujiko Live Club inizia con una novità. Quest'oggi è una novità, come spesso accade, solamente parziale, nel senso che ufficialmente l'album che vi propongo quest'oggi, per meglio dire la ristampa dell'album che vi propongo quest'oggi, è uscito nel settembre scorso ed è la riedizione, appunto la ristampa, mi sto ripetendo, di un album che in realtà è uscito 10 anni prima. Si chiama Southeastern, cioè sud-est praticamente, ed è un album di un personaggio che è un chitarrista cantante americano che è in ascesa, anzi ormai è già abbastanza in alto nell'Olimpo musicale americano, naturalmente di un certo tipo. Lui si chiama Jason Isbell. È stato insieme ai Drive-By Truckers, una grande band, dal 2001 al 2007, poi si è messo in proprio, il suo primo album è stato pubblicato proprio quell'anno. E i primi 2-3 album sono a suo nome solamente, Jason Isbell, mentre da lì in poi, dal terzo album, se ricordo bene, in poi, si è aggiunta anche la 400 Unit, l'unità 400, che è la sua band, la band che l'accompagna, per meglio dire, che include anche Amanda Shires, che suona il violino e canta, e incidentalmente è anche la moglie di Jason Isbell. Come dicevo, questa ristampa è mega, essendo un triplo CD. Abbiamo nella prima parte naturalmente la musica originale debitamente restaurata, debitamente remixata, dicono loro. Nel secondo dischetto invece abbiamo dei demos, cioè le stesse canzoni del primo, però in versione acustica, versione più scarsa, diciamo. Il terzo invece è quello che ci interessa, è che è stato registrato, è un live naturalmente, ed è stato registrato al Bijou Theater di Knoxville, Tennessee, il 15 dicembre dell'anno scorso, quindi è praticamente di questi giorni. Ci andiamo subito ad ascoltare il brano che ho scelto per voi per aprire questa trasmissione del 29 novembre 2023, ultima trasmissione del mese. Ci stiamo avvicinando a grandi passi a Natale, ma di questo parleremo più avanti. Il pezzo, come vi dicevo, si chiama Stockholm, come la capitale svedese. Good book, studied it too. me go home. Lessons for faith and a girl. Across the ocean, 1,000 years from my home. In this frozen old city of silver and stone. Ships in the harbor, birds on the bluff. Let me go home. And the night, so long, I used to pray for the daylight to come. Folks back home surely have caught up the search and gone back to their. Let me go home. Let me go. Let me go home. Thank you. Come dicevo, dedicato alla capitale svedese, questo brano si chiama Stockholm ed è parte integrante dell'album live che è inserito nella ristampa di Southeastern, ristampa tripla che appunto vede il terzo dischetto registrato dal vivo praticamente un anno fa. Il tutto da Jason Isbell, a cui è accreditato l'album, ma dal vivo ci sono anche i 400 Unit, l'unità 400, che oramai da diversi anni l'accompagna. And there are people sitting very close to me, but I didn't know any of them. Questo brano, questo, il titolo, per meglio dire, Stockholm, dedicato a questa enorme città che è conosciutissima, famosissima in tutto il mondo, naturalmente per il premio Nobel, ma non solo per quello. E mi ha dato l'idea di ascoltarci brani che hanno nel titolo il nome di una città. E questo sarebbe troppo semplice, nome di una città che inizia con S, come Stockholm, e quindi la cosa si restringe un po', ma ce ne sono veramente tantissime che adesso ci andiamo ad ascoltare, ad iniziare da una città lontana, una città che viene dal Vietnam, dal Sud Vietnam, che una volta, anzi adesso si chiama Ho Chi Minh City, una volta invece si chiamava Saigon, un'altra megalopoli di quelle tipiche orientali, 9 milioni di persone, ma sono sicuramente molti di più, almeno credo. E, è una delle tante canzoni che parla della guerra tra il Vietnam, però, la cosa che mi fa felice è che a interpretare questo brano, che si chiama Saigon appunto, e a scriverlo, è stata una band italiana, è una band italiana, una delle migliori in assoluto. Si chiamano Mandolin Brothers, vengono da Pavia e anzi da Voghera, per essere sinceri, e hanno fatto finora 6 album, di cui uno live, che è questo che ci andremo ad ascoltare, che si chiama 30 Lives, perché festeggia i 30 anni di musica di questa band, quindi una band molto longeva. Il tutto registrato allo Spazio Musica di Pavia il 25 e il 26 aprile del 2009, fra parentesi Mandolin Brothers, che saluto, sono stati a Castel San Pietro in Blues Festival nel 2011. Ce l'andiamo ad ascoltare, il brano si chiama Saigon. Saigon Town, Vietnam, lovely city, please stick around. Sequel driver, motorbikes. Please be careful when you ride. Fat white tourists down in the streets, yellow monks, they will campfire, meditation in life. If you walk those crowded streets at night, then I'm sure they are right, 'cause they move like angels in the night. It's the odd way by the moon. Thank you. sent us Playboy. They gave us farm home. We dug in deep and shone on sight and prayed to Jesus Christ with all of our might. We had no E gli elicotteri abbandonano Saigon, infatti eravamo ancora nella città sudvietnamita, insieme a Billy Joel abbiamo detto ciao, goodbye Saigon, il pezzo che ci siamo ascoltati da un album live che si chiama 12 Gardens Live, perché è stato registrato durante una serie di 12 concerti che Billy Joel ha tenuto al Madison Square Garden di New York, che è un po' il salotto di casa sua. Infatti lui detiene il record di concerti effettuati in questo storico teatro, perché in realtà oltre a essere un luogo sportivo è anche un teatro. Ha fatto più di 136 concerti in questo locale, e questi 12 erano durante l'inizio del 2006, dal quale appunto è stato tratto 12 Gardens Live, dal quale è stato tratto Goodbye Saigon. Rimaniamo nel lontano East. A proposito, avete pensato quante città conoscete che iniziano con la lettera S? Tantissime, però la prima che mi viene in mente, credo, è sicuramente San Francisco, che però non sarà in questa piccola rassegna. Faremo una cosa particolare appena possibile, proprio incentrata solamente su San Francisco. Dicevo, rimaniamo all'est, esattamente in Malesia, una città enorme con tantissimi milioni di abitanti anche in questo caso, e che si sviluppa su tantissime isole. Si chiama Singapore, come il brano che ci propone adesso Tom Waits. Give away. E siamo atterrati in territorio americano insieme alla Allman Brothers Band, che ci ha fatto ascoltare questo pezzo di Blind Willie McTell, che parla di Statesboro, una città del sud della Georgia, una cittadina, 34.000 abitanti più o meno, che è il pezzo che apre quel magnifico doppio album live, che poi è stato ampliato in diverse maniere, che è considerato uno dei migliori album live di tutti i tempi, che si chiama At Fillmore East, anzi solamente At Fillmore a dire il vero, e che si apre appunto con questa Statesboro Blues. Vi ho detto in precedenza che in questa occasione non ci saranno brani su San Francisco, ma c'è un brano su Sausalito, che è dall'altra parte della baia di San Francisco, un posto veramente magnifico che veramente fa scintille. Peccato che sia costosissimo, ma questo è tutto un altro discorso. Una gita di un giorno con qualche panino può anche essere abbastanza economico. Samba del Sausalito, Santana, l'album si chiama Lotus. Quindi prima eravamo in Georgia, poi siamo passati in California, adesso andiamo in mezzo, fra le due ci sta il Texas, che è una delle più grandi nazioni di tutti gli Stati Uniti, uno degli stati più grandi degli Stati Uniti, e che ha diverse città tutte molto interessanti, ma nel caso specifico quella che interessa a noi si chiama San Antonio. San Antonio, per gli amanti del basket, è la patria degli Spurs, e per gli amanti della musica invece è la sede di tantissimi locali dove si fa sempre grande musica. San Antonio è stata cantata, diciamo così, da tantissimi musicisti, a cominciare da Commander Cody, che è un personaggio che non molti di voi conosceranno, ma che è stato sulle scene per tantissimi anni, dal 1967 fino al 2021, l'anno in cui è morto. Inizialmente insieme alla sua band, che l'accompagna anche in questo album, la sua band si chiamava His Lost Planet Airmen, i suoi piloti dei pianeti perduti. Appunto lui si chiamava George Prain, è morto nel 2021 ponendo fine alla sua carriera, ma anche a quella dei Planet Airmen. Abbiamo in questo caso il loro primo album live, si chiama We've Got a Live One Here. Abbiamo un album live qui, che è stato però registrato in diverse occasioni in Gran Bretagna. Questo è un po' un paradosso per una band che più americana non si può. Comunque ce l'andiamo ad ascoltare. Il buon Commander Cody ci parla di San Antonio Rose. Deep within my heart lies a melody, a song of old San Antonio, where in dreams I live with memory, beneath the stars all alone. Well, it was there I found, beside the Alamo, enchantment strange as the blue up above, that moonlit sky that only she would know. Still hears my broken song of love. Moon in all your splendor, know only my heart. Call back my rose, rose of San Antonio. Lips so sweet and tender, like petals falling apart. Speak once again of my love, my own broken song. Empty words I know, still live in my heart all alone. And that beside the Alamo, and Rose, my Rose of San Antonio. Yeah. Thank you. deep within my heart there lies a melody, a song of old San Antonio, where in dreams I live with memory beneath the stars all alone. Well, it was there that I found beside the Alamo enchantment strange as the blue up above, that moonlit path that only she would know. Still here's my broken song of love. Moon in all your splendor, know only my heart. Call back my rose, rose of San Antonio. Lips so sweet and tender, like petals falling apart. Speak once again of my love, my own. Oh, broken song, empty words I know. Still living my heart all alone. Due modi di interpretare il nome della stessa città: il primo San Anton, scritto San Antone, e questo invece San Antonio, proprio scritto così come si dice, visto che è la versione spagnola del nome di questa città, che è la seconda città più popolosa del Texas, fra parentesi, è nella zona di San Antonio c'è anche il famoso Fort Alamo. Per noi bambini all'epoca era praticamente un mito, ma è un sito archeologico, dicono gli americani, ma è roba di credo 300 anni fa, 1836 per la precisione. Comunque, Steve Earle, fra parentesi, che ci siamo ascoltati con la sua San Antonio Girl, da un album della serie BBC Radio 1 Live in Concert. Tornerà più tardi, perché questo album, appunto, questo concerto è stato registrato il 29 novembre del 1988, quindi rientrerà a piedi pari in quel che è Ricordi Today di oggi. Andiamo a concludere con la chiusura del cerchio, perché ritorniamo a Stoccolma, ma stavolta non tanto come città, fatto una piccola deroga diciamo, non tanto come città in proprio, ma come sindrome. La sindrome di Stoccolma è famosissima, quella che lega i prigionieri ai propri Agostini o cose del genere diciamo, anche se poi la scienza ufficiale non lo riconosce ufficialmente, ma questo è tutto un altro discorso. A proporci questa Stockholm Syndrome sono i Muse, che hanno registrato nel giugno del 2007 il loro primo album live, che si chiama Harp, album CD più DVD, che appunto si conclude, quasi diciamo si conclude, è il penultimo pezzo con questa Stockholm Syndrome, che però conclude in realtà questa piccola rassegna dedicata a città del mondo che iniziano con la S. Ce ne sono ancora tantissime e magari ci sarà un'altra occasione. Muse. There's a man who walks beside me. He is who I used to be. And I wonder if she sees him and confuses him with me. And I wonder who she's pining for on nights I'm not around. Could it be the man who did the things I'm living down? I was rougher than the timber, shipping out of Fond du Lac. When I headed south at 17, a sheriff on my back. I never held a lover in my arms or in my gaze. So I found another victim every couple days. Known to the fighters and the farmers digging dusty fields alone. The jealous innuendo of the lonely hearted men let me know what kind of country I was sleeping in. Well, you couldn't stay a loner on the plains before the war. My neighbors took to slighting me, I had asked what for. Rumors of my wickedness had reached our little town. Soon she heard about the boys I used to hang around. We'd robbed a Great Lakes freighter, killed a couple men aboard. When I told her, her eyes flickered like the sharp steel of a sword. All the things that she'd suspected, I'd expected her to fear, was the truth that drew her to me when I landed here. There's a man who walks beside me, he is who I used to be. And I wonder if she sees him and confuses him with me. I wonder who she's pining for on nights I'm not around. Could it be the man who did the things I'm living down? Shortleaf pine, and buried her so deep she touched the water table line. I picked up what I needed and I headed south again. To myself I wonder, would I ever find another friend? There's a man who walks beside her, he is who I used to be. She sees him and confuses him with me. Thank you. Seconda parte di Città Fujiko Live Club, iniziata come sempre con la novità che vi propongo in ogni trasmissione. Non sempre la stessa novità, cambia in ogni trasmissione. Jason Isbell, in questo caso accreditato solo a lui, l'album originale Southeastern, così come questa ristampa tripla che è uscita nel settembre scorso e che oltre al due CD, quello originale e un CD di demos in studio, comprende un album live che è quello che ci siamo ascoltati. Scusate per la voce, dicevo, registrato al Bijou Theater di Knoxville nel Tennessee il 15 dicembre dello scorso anno. Il pezzo in particolare si chiama Live Hook e a proposito di Hook, vi consiglio caldamente di vedere, se già non l'avete fatto, il nuovo film di Ken Loach, The Old Hook, che è veramente fantastico. I said there's two kinds of men in this world and you're neither Come sempre nella seconda parte di Città Fujiko Live Club arriva Recorded Today, brani che sono stati registrati nel corso della giornata odierna, nel trascorrere degli anni, e ancora oggi come sempre tantissime cose, per cui il criterio di scelta è un brano per ogni decade. Headed home. She asked if I had considered the price. E iniziamo subito dal 1979, siamo in Italia, a Milano, con una delle migliori band in assoluto italiane, che però è romana, quindi era in trasferta. Loro sono, si chiamano tuttora Banco del Mutuo Soccorso, anche se in realtà della formazione originale è rimasto solo il buon Vittorio Innocenzi, tastierista e cantante, che dopo aver superato una malattia che gli ha dato non pochi problemi ha riassemblato la band con musicisti completamente nuovi e gira, ha fatto un album nuovo e sta suonando adesso in giro per l'Italia. Qui siamo alla formazione classica con ancora Francesco Di Giacomo, il grandissimo cantante che purtroppo morì in un incidente stradale nel 2014. Eravamo a Milano, siamo a Milano, come vi dicevo, in uno dei locali storici per quel che riguarda la musica jazz, che si chiama Capolinea, e però ogni tanto, come in questo caso, si apre a cose un po', non dico lontane dal jazz, ma che non sono propriamente di quel genere. L'album è uscito in vinile. E non mi sembra che ci sia una ristampa in CD, se c'è è pari pari quello dell'album, non ci sono aggiunte, e si chiama semplicemente appunto Capolinea ed è stato registrato il 29 novembre del 1979, appunto. Il brano che ho scelto per voi, un brano secondo me bellissimo, non è uno dei più famosi, ma ascoltatelo bene perché si chiama Canto di Primavera, Banco del Mutuo Soccorso, 29 novembre 1979. Hai bisogno di questo. questo sole e non ti fa paura la sua allegria, ma ti sorprende come una malattia. Grandissima voce quella di Francesco Di Giacomo, veramente una cosa bellissima. E come bellissima era questo canto di primavera, Banco del Mutuo Soccorso, anche se all'epoca si faceva chiamare solamente Banco, era il momento in cui tentarono la conquista di mercati esteri, specificatamente della Gran Bretagna, e Banco del Mutuo Soccorso era un po' troppo difficile per i cittadini britannici e non solo, e quindi accrociarono in Banco. Una cosa poi non andò per il verso giusto, ma sicuramente è stata una grande band che il 29 novembre del 1979 era in concerto al Capolinea, dove è stato registrato questo album omonimo, appunto, e dove è stato registrato questo canto di primavera. Ti danza il seno mentre corri a valle, con il tuo branco ai pozzi, le labbra secche. Mi avevo promesso che sarebbe tornato, infatti eccolo, più che una promessa era un'anticipazione. Steve Earle, un grande personaggio, viene dalla Virginia, ha avuto un attimo di grandissimo successo, qualche anno di grandissimo successo, poi ha avuto dei grossi problemi con la giustizia americana a causa di droghe, alcol, guida in stato d'ebbrezza, possesso di droghe, eccetera eccetera, che l'hanno un po' portato nel dimenticatoio, però è sempre un grande personaggio, tuttora un grande personaggio, molto impegnato politicamente, forse un po' troppo per quelli che sono i canoni americani, ma che sicuramente merita ascolto. Questo album che ci andiamo ad ascoltare, come dicevo prima, fa parte della serie BBC Radio 1 Live in Concert, una serie che la BBC ha pubblicato per anni con i migliori concerti provenienti dal proprio immenso archivio. Quello che ci andiamo ad ascoltare adesso è un brano che Steve Earle ha interpretato anche con i Pogues, è un brano che si chiama Johnny Come Lately. Steve Earle era il 29 novembre del 1988. This is called Revisiting the Scene of the Crime. The last time I played this song in this room, we'd made a record on it that afternoon, and it wasn't my gig. It was the day before St. Patrick's Day. And on the record, we did this with the Pogues. Tonight, you're going to hear it with the Dukes. This is called Johnny Come Lately. It's about a loudmouth American during World War II mouthing off in a pub somewhere in Camden, which is something I can relate to. I'm an American boy, come along with I was born and bred in the USA. So listen up close, I got something to say. And boys, I'm buying this ring. I well, it took a little while, but we're in this fight. Ain't going home till we done what's right. We're gonna drink Camden Town Dry tonight. And if I have to spend my last pound, when I first got the money, it was pouring down rain. Met a little girl in a beer can too. Registrato al Town and Country Club di Londra, dove qualche tempo prima lo stesso Steve Earle aveva suonato questo brano, insieme ai Pogues. È stato lui stesso a dirlo in sede di presentazione di questo Johnny Come Lately, che fa parte di questo concerto registrato il 29 novembre del 1988. Verso la fine degli anni Ottanta il buon David Bowie si era stancato, diciamo così, di fare il bravo ragazzo, il bel piacione, e voleva suonare duro, aggressivo. Quindi assemblò una band insieme ai fratelli Sales, Tony al basso e Hunt Sales alla batteria, una sezione ritmica devastante, e un chitarrista fantastico che risponde al nome di Reeves Gabrels, che alcuni di voi ricorderanno aver visto insieme ai Cure recentemente anche qui a Bologna. E la band si chiamò Tin Machine, durò solamente 4 anni, un paio di album in studio e 2 dal vivo, fra cui uno registrato a Parigi che è solamente reperibile in download, non è stato edito fisicamente. Questo invece è il loro primo, è stato edito fisicamente, si chiama Oy Vey Baby. È stato registrato in diverse occasioni, in diverse località. Il brano che ci andiamo ad ascoltare è stato registrato il 29 novembre del 1991 in quel di New York City, all'Academy di New York City, e si chiama Stateside. Loro sono Tin Machine. Oh.

such a thought. So many hours to wander down, so many choices you thought. But then a man come walking down the aisle. To run away once again, I'm stuck with the pain. Yeah, da da da. You ask yourself why you can't stay just 5 more minutes alone and walk away. You know it. So what you want, she said. Nothing that's looking nice. How come every time that I look once, I've got to look twice? But now she's coming around the bend, and I'm buying another toy. Son, will you come along with me? No, ma, I'm hanging out with the boys. Yeah, la-la-la, la-la-la, la-la-la. You ask yourself, just 5 more minutes alone, and we can walk away. You know it, your mom knows it too. What you want, she'd say, just one toy today. Just one toy today. Da, da, da, da, da. Those were the best years, and I would like to trade it all back. Just one more day, then I'll let it slip away. One more time. But my, I gotta go away again. Una band che credo dalle nostre parti in pochi conoscano, si chiamano OAR, detta all'italiana OAR, che starebbe per Of a Revolution, di una rivoluzione, ma di rivoluzionario veramente c'è poco in questa band, che però ha un successo grandioso negli Stati Uniti, sempre a un certo livello, chiaramente a livello giovanile, a livello di college, a livello di università, però riempie stadi, riempie grandi locali ed è una band che ha una sua ragione, diciamo, e vengono da Rockville nel Maryland e sono attivi dal 1966. È uno di quei tipici successi che di voce in voce, non ci sono stati grossi album venduti, anzi gli album vengono venduti dopo che la gente li ha visti in concerto, quindi è una cosa di questo genere. L'album in questione che ci siamo ascoltati si chiama 34 and 8, sarebbe 34esima e ottava, che è l'incrocio dove è situato l'Hammerstein Ballroom, che è il locale dove è stato registrato questo album il 29 novembre del 2003. Il pezzo che ci siamo ascoltati si chiama Toy Store. A concludere Città Fujiko Live Club e anche Ricordi Today o viceversa, mettetela come volete, arriva una gentile signora che si chiama Kelly Ricci, che ogni tanto però si incazza parecchio. Comunque è una chitarrista cantante da tanti anni sulle scene, viene da Cincinnati, Ohio, ed è dal vivo soprattutto una forza della natura. Fra l'altro, se vi interessa, se andate sul suo sito, dà anche lezioni di chitarra online, una cosa che può sempre essere utile. L'album che ci andiamo ad ascoltare è stato registrato al Blue Wisp di Cincinnati, quindi praticamente a casa sua, il 29 novembre del 2013. Prima però vi devo ricordare che vi siete ascoltati Città Fujiko Live Club, un paio di ore di musica dal vivo di ogni genere, di ogni epoca, ogni mercoledì più o meno dalle 10.30 alle 12.25, naturalmente 103.1 MHz e modulazione di frequenza stereofonica di Radio Città Fujiko da Bologna. E vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento a martedì prossimo. Vi lascio insieme a Kelly Ricci e alla sua band il pezzo che ha qualche problema, vedo adesso dal lettore CD, proviamo a vedere se riusciamo a metterlo al volo. Eccolo qua, sono riuscito. Il pezzo, come vi dicevo, si chiama Everybody Needs a Change. Lei è Kelly Ricci con la sua band. Ciao a tutti da Nevio. Yeah. Make us see. Look at what it takes to even make us cry.